Letture di Radio 24. Per la giornalista di Al Jazeera, Barbara Serra, può essere semplice farsi un'idea della crisi libica e in particolare di come questa situazione sia vista nel resto del Medio Oriente. Eppure, anche se cercata dal suo punto di vista privilegiato, la risposta non può essere che molto complessa e articolata. Lavorando ad Al Jazeera, la domanda che mi viene spesso fatta è: cosa ne pensano in Medio Oriente della situazione in Libia? Domanda cruciale, risposta complicata. Non c'è un'unica voce araba, come non c'è un'unica voce europea. Esiste la Lega Araba, ma bisogna ricordare che in un mondo dove non esiste democrazia, i suoi rappresentanti fanno il volere dei capi di Stato. Non devono giustificarsi al seggio elettorale, almeno non dovevano. Quasi tutti i governi arabi stanno ora vacillando dopo un'onda di proteste popolari. Non possiamo parlare di Libia senza guardare l'intero paesaggio, da Tunisia ed Egitto, dove dittature decennali sono crollate in settimane, dal piccolo ma strategico Bahrain al colosso Siria, dall'instabile Yemen all'impensabile Arabia Saudita. Lo leggo nelle facce dei colleghi arabi più anziani. I cambiamenti che speravano arrivassero sono finalmente qui, ma a una velocità sconcertante. E nessuno se la sente di prevedere come o quando andrà a finire. Sull'azione in Libia, l'opinione pubblica è divisa. La guerra in Iraq, vista come un attacco all'Occidente, ha lasciato cicatrici. Però sento anche l'orgoglio di essersi finalmente liberati dei dittatori. Mi chiedono perché, dopo aver usato per anni la democrazia come scusa per invadere l'Iraq, l'Occidente non abbia aiutato i ribelli egiziani e tunisini. Ora quelli libici li stiamo aiutando. Esiste il pericolo di guerre civili, di partiti estremisti, ma c'è anche la possibilità di un futuro Medio Oriente stabile, benestante ed equo. Un degno partner economico, di cui noi non dovremmo vergognarci. Un giornalista arabo famoso mi ha detto: «Se vuoi avere ragione in un dibattito sul Medio Oriente, abbraccia l'opinione pessimista». Ho parlato con abbastanza giovani arabi per credere in un futuro migliore. Spero che il tempo mi dia ragione comunque. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «La crisi libica vista dal mondo arabo» di Barbara Serra, da 7 di giovedì 31 marzo. Letture di Radio 24. Una soluzione alle paure per terremoti, centrali nucleari e petrolio alle stelle si può iniziare a cercare nella quotidianità di ognuno di noi. In due parole, consumare meno senza coltivare utopie irraggiungibili, ma cercando di cambiare qualche piccola abitudine. I rubinetti del petrolio e del gas sono nelle mani di paesi a forte rischio geopolitico, come la Libia. Per il nucleare nulla sarà come prima, dopo la catastrofe in Giappone. Sole e vento ci fanno sognare in verde, ma significano tecnologie costose che paghiamo con le nostre bollette e rendimenti ancora incerti. La trappola energetica in cui ci siamo infilati è questa: da un lato la schiavitù dal petrolio, dall'altro l'incertezza sulle alternative. E allora? Ci arrendiamo? In attesa che la storia ci aiuti a trovare una via d'uscita, possiamo utilizzare la risorsa più utile e più disponibile: il risparmio energetico. Noi occidentali abbiamo stili di vita compulsivi e spreconi che ormai non sono compatibili con la disponibilità energetica e possiamo modificarli con estrema semplicità. Prendete per esempio l'uso dell'automobile. Nel 31% dei casi gli italiani se ne servono per spostamenti inferiori ai 2 chilometri. Paghiamo carburante, assicurazione, multe e parcheggi per fare anche pochi metri in macchina. Uno spreco che sarebbe azzerato circolando di più con i mezzi pubblici, in bicicletta, a piedi, come già avviene in tante metropoli del mondo, a partire da Manhattan, New York, dove il 77% degli abitanti non ha più l'automobile, e da Londra, dove si costruiscono interi grattacieli senza parcheggi. In casa, luci sempre accese, facciamo girare gli elettrodomestici come delle trottole, d'inverno ci accomodiamo in salotto con la maglietta a maniche corte, mentre basterebbe regolare la temperatura attorno ai 20 gradi, sapendo che ogni grado in più vale un aumento della bolletta del gas tra il 7 e l'8%. D'estate, eccoci con il pullover. Ci immergiamo nell'aria condizionata, una delle principali cause dell'obesità. Vogliamo il freddo polare in casa e forse non sappiamo che un semplice split per l'aria condizionata consuma corrente elettrica pari a 4 volte quella di un frigorifero. Siamo diventati pigri. Anche se si tratta di evitare lo spreco di energia collegato allo stand-by, quando gli elettrodomestici non sono spenti, ma semplicemente consumano meno. Un computer in stand-by in un anno ci costa oltre 100 euro. E basterebbe rinunciare a quella lucina rossa in tutti gli elettrodomestici in attività, con una banale ciabatta, per risparmiare fino al 10% della bolletta elettrica. Sono numeri importanti, tenendo conto che una famiglia italiana in media spende 300 euro al mese per consumi collegati alle forniture energetiche. Il risparmio energetico non è uno slogan, è una necessità e si traduce in un contributo immediato per il miglioramento dell'ambiente. Pensate, siamo stati i più grandi consumatori in Europa di sacchetti di plastica per fare la spesa. Ne compravamo quasi uno al giorno, a testa. E da quando sono finiti fuori legge, dal 1 gennaio di quest'anno, nessuno li rimpiange. Abbiamo rinunciato senza danni a una spesa, a un consumo di petrolio, a un danno per la delicata catena di smaltimento dei rifiuti, a uno spreco. Non abbiamo bisogno di trasformarci in moderni francescani oppure di coltivare slogan suggestivi quanto irrealizzabili, come la decrescita felice. È sufficiente l'uso del buon senso e di un pizzico di quella sobrietà che ci ha fatto diventare un paese ricco e solido. Basta veramente poco per il cambiamento e può significare tanto per tutti. Avete ascoltato la lettura dell'articolo "Se l'auto finisse come i sacchetti di plastica" di Antonio Galdo da Vanity Fair del 6 aprile 2011. Il presidente venezuelano Hugo Chavez è stato insignito di un premio giornalistico da parte dell'Università Nazionale della Plata, Argentina. Il riconoscimento ha causato non poche discussioni da parte di non pochi analisti e giornalisti, secondo i quali il rapporto del presidente con i media non è del tutto democratico e trasparente. Lo hanno premiato per il suo impegno nel consolidare l'unità latinoamericana e difendere i diritti umani, per la sua coerenza verso la verità e i valori democratici e per il suo contributo alla comunicazione popolare. Ma quel riconoscimento nelle mani del presidente venezuelano Hugo Chavez ha scatenato una valanga di polemiche. C'è un particolare paradossale che non va proprio giù all'opposizione venezuelana e ai critici del leader bolivariano. Il tributo è stato concesso dalla Facoltà di Giornalismo dell'Università Nazionale della Plata, Argentina. Durante il governo di Chavez, ricordano decine di analisti e giornalisti, venezuelani e non, è stata chiusa una TV privata e hanno dovuto serrare i battenti 34 radio. Criticato duramente dalla Società Interamericana della Stampa, SIP, e da Human Rights Watch per il suo spinosissimo rapporto con i media, il presidente ha messo le mani avanti contrattaccando. In America Latina è in corso una battaglia per liberarsi dalla dittatura informativa della borghesia e dell'imperialismo, giacché le classi dominanti si sono sempre preoccupate di impossessarsi dei mezzi per manipolare e ingannare i popoli attraverso potentissime campagne psicologiche. Quanto alle accuse di oppositori e ONG in difesa della libertà d'opinione, Chavez nega tutto. Nei miei 12 anni di governo non abbiamo chiuso nessun mezzo di comunicazione. Non solo. In Venezuela regna la maggiore libertà di stampa della nostra storia, assicura. Il premio porta il nome di Rodolfo Walsh, il fondatore dell'agenzia Prensa Latina nel 59 a Cuba, che si unì ai Montoneros e venne ucciso negli anni 70 durante la dittatura argentina. Per il quotidiano La Nación, quella statuetta assegnata a Chavez è una crudele burla nei confronti del giornalismo. Pesante anche il commento del sindaco di Buenos Aires, Mauricio Macri, precandidato del centrodestra, PRO. Il tributo a Chavez è un messaggio spaventoso, perché il presidente venezuelano non rispetta la libertà di opinione, è autoritario, ma qui lo premiano. Poi, in chiave politica domestica, Macri ha lanciato una frecciata in diretta alla presidente argentina Cristina Fernández Kirchner. «Io non voglio questa Argentina e non la vuole neppure la grande maggioranza». A Cristina, come la chiamano in patria, Chavez ha invece dedicato solo parole di elogio, accennando alla possibile rielezione della vedova di Néstor Kirchner. «È la donna di cui ha bisogno l'Argentina in questo momento e negli anni a venire, per assicurare la rotta della nave». L'alleanza fra Caracas e Buenos Aires è solida, anche sul fronte economico. I due leader sudamericani hanno firmato vari accordi bilaterali. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Premio giornalistico a Chavez in Argentina, è bufera» di Michela Coricelli, da Avvenire, di giovedì 31 marzo.